Ciao, Richard, che era, volevamo chiedere se potevamo fare un'intervista. Sì. Una registrazione, ok. Sì. Per cosa? Per praticamente per un'attività che facciamo di Borgo Sacco, dei suoni che sentiamo. Ah, sì. È da 2 mesi che stiamo registrando un ma dai, po' di persone. Ma dai, ogni tanto. sì, mi conviene. Ah, volevamo chiederle da quanto tempo, Berta? Da 5 anni. Posto, beh, come si trova qua in questo bene, posto? Bene. Mi piace. Dico, è molto, cioè, un posto più da persone di una certa età ormai che non viene visitato molto. Ma no, dai, ci sono anche i giovani qua. Non... Perciò clienti c'è solo. Sì. Non possiamo lamentarci. Questo così? Eh? Questo così? È poco che abbia. Non so se vuoi raccontarci qualcosa. No? No, non so cosa. No. Non so cosa raccontarvi. Ma questo qua, questo tabacchino è aperto da 5 anni proprio? Sì, era qua in Via Libertà e non l'abbiamo spostato, l'abbiamo messo qua in piazza. Okay. Qua c'era un negozio di frutta, di verdura e che ma si è spostata dall'altra parte, no? O è rimasta? No, sono andati in pensione quelli del vecchio che avevano verdura e frutta, sono andati in pensione, allora rimaneva vuoto e non l'abbiamo preso, abbiamo spostato la licenza qua e ci siamo proprio messi in piazza. Ah, ok. Bon, grazie. Grazie a mille. Ciao, buon lavoro. Altrettanto.